Zolt. Fulminati in azienda. Ecco, dunque Marco, ho analizzato le schede di valutazione che i collaboratori hanno fatto dei loro capi ed è emerso che i capi della nostra azienda non sono tanto bravi a fare capi. Ma come? Con tutto quello che mi hai fatto investire in formazione, ma non hanno partecipato al nostro corso You Are a Leader? Sì, e il corso è stato un successone. Ciascuno ha potuto trovare con il test il leader che è dentro di lui, un'innovazione proprio. Sì, peccato che non si vede questo leader. Allora, ascolta, il mio naso mi dice che i nostri capi devono essere più bravi, così a occhio. E allora cosa facciamo? Non possiamo mica licenziarli tutti. Ah no? Perché? Ci costerebbe un botto in buone uscite, dico. E allora, sa che ho un'idea geniale, Schedula. Oggi ho un'idea geniale, non è la prima forse. Facciamo un altro corso sulla leadership. Un altro? Sì, ma avanzato, no? Prima la leadership di base, adesso facciamo un corso alla leadership avanzata, per tutti. Però questa volta magari cambiamo docente, cioè anziché quegli psicologi lì color tristezza che ci porti tu, perché non coinvolgiamo l'americano lì, Donald Young? Certo, certo, Donald ci può sicuramente aiutare, sarebbe anzi contentissimo. Ecco, se posso, oggi sono proprio in buona, no? Ti darei anche il titolo del corso, un bel titolo appealing, sexy, cioè This fish smells from the head, Il pesce puzza dalla testa. Allora ragazzi, sono molto contento di essere di nuovo qui con voi per questo nuovo corso. Parliamo di una cosa molto innovativa: leadership, vision, mission and values. Ma sarà il decimo corso che stanno a fare su sta roba, dice. E vuol dire che ce n'è ancora bisogno, perché il vostro collaboratore non può non essere committed. Come chi? Coinvolto. Ah, coinvolto, committed. Esatto, non può essere motivato se non sente la mission aziendale. E allora noi vogliamo rievocare nostra mission tutti insieme, perché così voi trasferite mission ai vostri collaboratori. E allora tutti insieme in coro, noi siamo qui per creare valore e soddisfare cliente. Noi siamo qui per creare valore e soddisfare il cliente. Più energy, energizing. Noi siamo qui per creare valore e soddisfare il cliente. Molto bene, il cliente al centro e tutti i dipendenti dell'azienda, tutti noi gli siamo intorno. Sì, lo mettiamo in mezzo o corchiamo le botte. Allora centrifughi, tu farai cliente, tu stai al centro e tutti gli altri ti staranno intorno e ti accarezzeranno con le loro mani. Oh, ma che sta a fa? Oh, leva le mano. Oh, ma te ho due sberle, ma che è sta? Non mi accarezzare, che è? Ma no, non fare così, abbiamo bisogno simbolicamente di accarezzare il cliente. E ho capito, però te strofini, mi tocchi, ma che è? E ora dite al cliente, accarezzandolo, che gli volete bene. Ti vogliamo bene. Grazie. Però adesso, ma che è sta cosa, Donald? È normale che mi sento un po' deficiente a fare ste cose? Project work, centrifughi. In ufficio chiama tuo collaboratore e motivalo con carezza, trasferendo mission and vision. Ma se faccio l'esercizio che li tocco, mi denunciano. Direttore, la mega cerca la cacciamà? Ma come parli, Paco? Vabbè, vieni qua, mettiti qua, mo te metti al centro e tutti noi attorno. Tutti noi chi? La sei da solo? Paco, ho capito, è una metafora, seguimi. Allora, Paco, la sai la mission della nostra azienda? Noi siamo qui per creare valore e soddisfare il cliente. Ecco, bravo. Allora, sai com'è che lavori male e demotivato? Mi so che siamo qua per soddisfare il cliente. Infatti mi arriva sul tavolo 460 richieste in media al giorno di disdetta dei clienti furibondi. Ma mo che c'entra questo che è mission? Non, Paco, non devi guardare il dito, devi guardare la luna, La conosci a storiella, Comunque, Paco, tu devi essere più motivato. Motivate! Se la sai la mission, a questo punto devi essere più motivato. L'ha detto Donald Jump. Adesso, vieni qua, mettiti al centro, che t'accarezzo. Vieni qua. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.